Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, giornata tutta direi dedicata allo scenario in Italia, per sostanzialmente quattro motivi che possiamo dividere in due gruppi. Uno, come sapete anche dai nostri GR24, il DL semplificazioni con il cosiddetto Italia veloce, quindi le opere prioritarie. Nel dettaglio sono 36 le opere commissariate elencate nel piano di infrastrutture e 12 opere idriche, 15 opere ferroviarie e 9 infrastrutture stradali. Questo con l'obiettivo, all'interno di 130 opere prioritarie, ve ne sono appunto 36 commissariate, l'obiettivo è appunto arrivare a una semplificazione e aumentare la velocità nel completamento oltre che realizzazione di queste opere, e di questo ci occuperemo nella seconda ora del programma, anche perché i commissari vengono, ha spiegato il Premier Conte, vengono utilizzati nei casi più complessi. Ecco perché dicevo le opere commissariate sono 36 su 130 opere definite comunque prioritarie, e ne parleremo nel dettaglio. L'altro fronte riguarda la fotografia che oggi è arrivata da diversi soggetti. Mi riferisco da un lato alla Banca d'Italia, che ha fatto un'indagine straordinaria sulle famiglie italiane condotta fra aprile e maggio, quindi fotografa, diciamo, cosa è successo soprattutto alle famiglie italiane nei mesi del lockdown. Poi c'è l'Unione Europea e anche l'OCSE, ma soprattutto l'Unione Europea, che hanno diffuso oggi le previsioni d'estate, quindi fotografano che cosa capiterà nel 2020 e in parte anche nel 2021. E poi, dicevo, l'OCSE invece scatta una fotografia analoga, concentrandosi però sulla disoccupazione, toccherà livelli record a fine 2020. Poi c'è l'altra fotografia scattata a questo punto dall'Istat. L'Istat si è occupata, a mio avviso in maniera positiva e anche costruttiva, di andare a distinguere tra i vari settori, e quindi nella nota mensile sull'andamento dell'economia vede a maggio i primi segnali di ripresa dei ritmi produttivi, ma poi va a distinguere tra e-commerce, per esempio, che è andato molto bene come era prevedibile, shopping e vestiti, dove invece non si vede alcuna ripresa neanche nel mese di maggio. Ricordo il mese di maggio, dal 18 maggio, quindi metà mese, è quello in cui si sono riaperti anche i negozi di abbigliamento. E poi va a distinguere tra i settori economici, dice che la manifattura mostra una maggiore resilienza, quindi capacità di resistere agli shock, e sta riorganizzando la produzione. Tant'è che il 36% delle aziende manifatturiere sta riorganizzando la produzione, il 30% ha strategie di espansione, un 33% prevede invece di avere una riduzione dell'attività, dell'occupazione e degli investimenti. Però poi ha scattato l'Istat anche la fotografia di chi è rimasto aperto. Il 32% delle aziende ha potuto operare durante le varie fasi del lockdown, a cui corrisponde quasi la metà dei lavoratori e il 54% del valore aggiunto prodotto. Poi l'ISAT va, dicevo, anche a distinguere tra i settori, e dice un'azienda su tre rischia la chiusura per il Covid, sopra i tre addetti è l'analisi, e però distingue, dicevo, anche dei settori, perché se la manifattura mostra qualche elemento di resistenza, di resilienza, di capacità di reazione, il settore degli alberghi, ristorazione, addirittura l'ISAT vede 6 alberghi e ristoranti su 10 in pericolo, anche se anche di qualcosa si sta muovendo. Fotografia, quindi tante fotografie di quello che è successo, di quello che succederà, e anche della distinzione fra i settori, che affronteremo nella prima ora del programma. Sostanzialmente sono questi due macro temi: DL semplificazioni con la parte Italia veloce e nuove previsioni e aggiornamenti economici sia di carattere congiunturale che anche di previsioni sull'anno. I mercati oggi non hanno grandi movimenti, soprattutto a Milano, invariata Milano, meno 0,80 a Parigi, meno 1 a Francoforte, meno 1,5 a Londra, meno 0,60 al Dow Jones, segnalo Moncler più 2,40, Diasorin più 2,12, Prismian più 1,80, Snam più 1,40, Italgas più 1% come Enel. Fronte opposto, Telecom Italia meno 3, Tenaris meno 2, Recordati meno 1,70, Ubi meno 1,60, Exor meno 1,30 come era e Saipem 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. E poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Rapidissimamente le altre notizie in breve. Per quello che riguarda l'Europa, sostanzialmente c'è una risalita della produzione industriale in Germania nel mese di maggio, però attenzione, è sotto le attese, nel senso che ha fatto più 7,8% la produzione industriale in Germania su aprile. Ci si attendeva un rimbalzo più forte, un più 11%, soprattutto il dato importante è che se si guarda maggio 2020 in Germania e maggio 2019 come produzione industriale, il dato è obiettivamente pesantissimo, meno 17% rispetto a un anno prima. L'unica, una delle poche buone notizie di questi giorni arriva dallo spread, che resta stabile intorno ai 160, oggi era 163 punti grazie alla Banca Centrale Europea ovviamente. Venendo all'Italia, do un aggiornamento anche sulle domande arrivate dalle banche al fondo di garanzia per i prestiti fino a 30.000 euro e anche per gli altri, perché poi ci sono quelli fino a 800.000 euro e poi 5 milioni. Allora, sono arrivate 783.000 domande dalle banche al fondo di garanzia per un totale di 47 miliardi di finanziamenti richiesti, prestiti richiesti, di cui ancora la stragrande maggioranza, cioè 685.000 domande già processate dalle banche mandate al fondo di garanzia, su 780.000 sono per i prestiti fino a 30.000 euro e valgono 13 miliardi e mezzo. Le altre 100.000 domande valgono sostanzialmente 34 miliardi perché sono domande di ammontare più ampio, sono meno domande ma di ammontare più ampio. Segnalo ancora due notizie prima di passare all'approfondimento. L'analisi della GCOM, dell'autorità sulle telecomunicazioni, in allegato alla relazione annuale, fa notare due cose. La prima è che la pandemia ha aumentato le disuguaglianze sociali e digitali preesistenti, e questo l'abbiamo detto in tutti i modi possibili, e tra l'altro perché dice a fronte di livelli di copertura territoriale che potenzialmente sono dell'89%, cioè la possibilità delle famiglie italiane di accedere a servizi internet con velocità maggiori o uguali a 30 megabyte, solo il 37% delle famiglie possiede effettivamente una simile connessione, in particolare nelle regioni del sud. E il 12% degli studenti, 12,5% degli studenti non ha usufruito della didattica a distanza, dati inaccettabili per una democrazia evoluta. E qui obiettivamente bisognerebbe andare a capire un insieme di cose, perché è vero che la copertura, dice la GCOM, raggiunge l'89% delle famiglie italiane. Può essere sicuramente vero che nelle situazioni di maggiore povertà relativa e anche assoluta la non disponibilità economica abbia portato a non avere né la connessione né gli strumenti per poi utilizzare la connessione. Però attenzione, io personalmente ho anche la sensazione che vi sia stato un ritardo e nella didattica a distanza sappiamo che non tutte le scuole si sono attrezzate nello stesso modo. Però, e quindi va bene prendersela sulla copertura e anche con la scuola, però attenzione, a mio avviso molte famiglie avevano sottovalutato l'importanza della connessione, della digitalizzazione, non solo per un motivo economico, perché ho difficoltà adesso, visti i costi di una connessione, diciamo, a internet, e viste altre spese, non ho problemi a ritenere che in alcune famiglie, non tanto per un motivo essenzialmente economico, non penso che siano i 20 euro, i 30 al mese di abbonamento a fare la differenza. Vediamo, andiamo a vedere quanto spendi di abbigliamento per te o per i tuoi figli, quanto hai speso in altre, per carità, mica le sto criticando, però le priorità possono essere anche altre. Allora, dare tutta e l'unica responsabilità al mondo della scuola o alla copertura mancante significa, secondo me, assolvere in maniera sbagliata anche molte famiglie che hanno preferito spendere i soldi in altre cose piuttosto che avere un tablet in più e una connessione funzionante. Ripeto, al netto delle famiglie con reali difficoltà economiche in cui anche banalmente 30 euro in più al mese o 20 euro in più al mese possono rappresentare una differenza, però non prendiamoci in giro. C'è stata anche una sottovalutazione da parte delle famiglie, o altre priorità, e non voglio adesso andare avanti sul tema, vedo molti che stanno scrivendo anche al nord. Ma non sto dando giudizi di valore, è un giudizio di fatto. Magari hai preferito comprare un paio di scarpe più alla moda per tuo figlio e non comprare o non mettere la connessione wifi, oppure non cercare una soluzione per avere un tablet, un device ulteriore. E allora vuol dire che forse uno può anche rivedere le priorità nelle scelte di consumo. Qua. Cioè, se la G-Com dice che solo il 37% delle famiglie possiede effettivamente una simile connessione, o dobbiamo immaginare che il 63% delle famiglie italiane non abbia i soldi nemmeno per pagare un abbonamento di un wifi, di un sistema wifi o, al mese, e allora immaginiamo un altro paese, secondo me, basta vedere l'andamento dei consumi pre-lockdown, non sto parlando durante il lockdown, sto parlando prima dell'epidemia, oppure dobbiamo immaginare che alcuni abbiano continuato a fare altri consumi piuttosto che quelle dedicate al digitale. Dunque, andiamo avanti con le altre notizie. L'ultimo dato sull'AGCOM invece. Attenzione, perché la G-Com fa notare anche che sono mancati 1 miliardo di ricavi pubblicitari al mondo dell'informazione, quindi riguarda anche noi direttamente, televisione, internet e radio e giornali. Qualcuno mi sta scrivendo di autostrade per l'Italia, allora ne parleremo nella seconda ora, quando parleremo del piano per Italia veloce, il piano infrastrutturale, però faccio notare che oggi l'ANAC, quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'audizione del suo presidente Francesco Merloni alla Commissione Lavori Pubblici, è stata durissima sulla gestione dei dati, la gestione di Autostrade per l'Italia, della rete autostradale. Tra l'altro, sulla vicenda del ponte di Genova, l'ANAC ha detto: nella vicenda del ponte di Genova il tasso di manutenzione era intorno al 27%. Rispetto ai piani finanziari, quindi ha fatto Autostrade per l'Italia dei piani finanziari su cui poi si muovevano anche i piani tariffari dei caselli che paghiamo, ma era solo al 27% dei piani finanziari, e comunque gli interventi erano stati rinviati nel tempo e il dato complessivo era insufficiente a dare garanzie di sicurezza all'opera. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Sì, molti mi fanno notare che con vari gestori i costi sono anche più bassi, soprattutto sulla telefonia mobile, a 7 euro, 6 euro, 8 euro al mese per 50 giga. Voglio dire, sono d'accordo, però qualcuno mi dice... lei sta dando uno schiaffo, no guarda, non sta dando uno schiaffo a nessuno, poi se uno ha la coda di paglia non è colpa mia, ho detto al netto delle situazioni reali di povertà o relativa o povertà assoluta. Qualcun altro mi scrive, è obbligato, se uno non vuole il collegamento è obbligato a prenderlo, certo che non è obbligato, ma poi non deve lamentarsi se lui, i suoi figli restano tagliati fuori da ogni dinamica. Cioè, nessuno è obbligato a fare niente, forse sei obbligato solo a mangiare se vuoi sopravvivere, però basta non lamentarsi, dire sempre ah siamo rimasti indietro. Attenzione, ci sono state anche priorità un po' diverse, non mi fate parlare sennò divento sgradevole sul tema, perché in giro non vedo solo ragazzini denutriti, vedo ragazzini anche ben vestiti e di vari ceti sociali, non vedo solo mamme e genitori che non riescono a pagare 8 euro, 20 euro al mese di connessione con un wifi, vedo persone che hanno avuto altre priorità, va bene? Bene. Dai, 349-238-6666 per sms e whatsapp, è inutile piangere sempre il morto, lo dico che mi sta scrivendo, andiamo con i dati diffusi oggi, iniziamo con quelli della fotografia, di che cosa è successo durante il lockdown, e chiaramente il mio ragionamento su come ci siamo arrivati e sullo scarso investimento di alcune famiglie nel digitale era relativo al pre, diciamo, epidemia. Bolsonaro è positivo, mi dispiace molto per il presidente del Brasile, che ha negato qualunque tipo di epidemia, necessità di lockdown. Mi ricorda un po', come si chiama, Boris Johnson, quello che disse dobbiamo abituarci a dire addio ai nostri cari, e tutto il paese gli fece ciao, e poi insomma per fortuna Boris Johnson è uscito e anche si è ravveduto dopo la posizione iniziale del gregge e dell'immunità di gregge. Bolsonaro ha fatto anche peggio e mi dispiace per lui, che devo dire, magari anche lui adesso si ravvederà sulla via di Damasco. Ma mi dispiace anche per gli altri cittadini brasiliani, diciamo, che hanno dovuto subire la follia di Bolsonaro in questi mesi. Comunque non è che stiamo uscendo molto bene questi sovranisti populisti, penso Trump, Bolsonaro, anche Johnson, da tutta la vicenda della gestione del Covid, con tutti i limiti che hanno altre democrazie. Allora, professor Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, buonasera. Buonasera. Non voglio parlare di Bolsonaro con lei, ci mancherebbe. Andiamo invece su quella che è la fotografia. Oggi ci sono, ripeto, tante fotografie: Banca d'Italia, OCSE, Commissione Europea, Istat. Partiamo dalla Banca d'Italia, che ha fatto un'indagine straordinaria sulle famiglie italiane tra aprile e maggio, e dice sostanzialmente oltre metà della popolazione dichiara di avere subito una contrazione del reddito familiare in seguito al lockdown. L'impatto è stato particolarmente severo per i lavoratori dipendenti. E poi aggiunge: un terzo delle famiglie italiane ha riserve per soli 3 mesi, e questa quota arriva al 50% per i disoccupati e i lavoratori dipendenti con contratto a termine. Il 40% delle famiglie italiane dichiara di avere difficoltà nel sostenere le rate del mutuo a causa della crisi, quota più elevata nel sud d'Italia. Niente vacanza per 30% della popolazione, quasi un terzo. Però attenzione, qui c'è un dato che ha trovato il nostro Alessandro Arona dell'Istat. L'anno scorso era il 40% la quota delle famiglie che diceva che non sarebbe andata in vacanza. E poi un netto peggioramento del mercato delle abitazioni. Le chiedo un primo commento su questa indagine straordinaria della Banca d'Italia per poi passare invece alle previsioni dell'Unione Europea. Professor De Aglio. Ma sa, tutte queste indagini si limitano a fotografare quello che la gente dice, quindi sono più fotografie di stati d'animo che di stati di fatto. In altre parole, la gente può avere l'impressione di stare peggio, di non avere riserve, eccetera, maggiore della realtà. Non è che faccia i conti tutti i giorni, ha un'idea complessiva di come sta vivendo. Questi dati in parte contrastano con sempre dati di fonti bancarie che fanno vedere che i conti correnti in genere tendono a essere gonfi. E la gente non spende perché ha paura e poi, non avendo speso, dice che pensa di avere paura. Quindi attenzione a prendere la statistica per quello che è, quindi una sensazione diffusa di povertà alla quale si accompagna sicuramente una povertà vera, ma come dice l'ultimo dato su quelli che vanno in vacanza, non è per il momento di portata così mega galattica come sì, alle volte si è portati a credere. E poi arriveremo a questo, perché le indicazioni che ci arrivano, anticipo il tema dopo il meteo, che è l'indagine invece dell'Istat su anche vacanze, alberghi, ristoranti, a noi arrivano segnali di estrema difficoltà, l'ho già detto ma lo ripeto volentieri, nelle aree urbane o nei centri storici o nelle aree urbane dove gli uffici sono ancora vuoti per lo smart working. Arrivano però segnali di un andamento migliore delle attese, che non vuol dire un andamento buono, ma un conto è fare un meno 10 a fine anno, un conto è fare un meno 40, nelle aree turistiche, in particolar modo la costiera adriatica e anche la costiera tirrenica, stanno, dati alla mano delle associazioni di turismo, stanno registrando nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, quasi il tutto esaurito sulle strutture alberghiere e anche di ristorazione. Quindi attenzione che la situazione è, come si dice in questi casi, a macchia di leopardo, con anche qualche segnale di un ritorno degli stranieri, in primo luogo tedeschi, austriaci, svizzeri, e qualche inglese. E poi lei ha ragione, professor Deaglio, a ricordare che nel frattempo, durante il lockdown, i depositi bancari degli italiani, non chiaramente di chi è in difficoltà, sono aumentati di quasi l'8%. Quindi il conto corrente, non di tutti, ma è una media, per alcuni è aumentato anche di più, non hai speso e i soldi li hai messi sul conto corrente. Professor Deaglio, dopo il meteo vorrei invece che lei commentasse le previsioni dell'estate della Commissione Europea, che vedono purtroppo l'Italia fanalino di coda. Devo dire, noi faremo meno 11,2, la Spagna meno 10,9, la Francia meno 10,6, siamo lì, cioè i tre paesi che hanno cali, avranno crolli del PIL a due cifre, si chiamano Italia, Spagna e Francia, e obiettivamente le differenze sono minime, lo 0,2 con la Spagna, lo 0,5 con la Francia. Dopo il meteo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni in collegamento al professor Deaglio. Professore, veniamo all'altra fotografia, quella delle previsioni estive della Commissione Europea. I dati peggiori per il 2020 sono quelli d'Italia, meno 11,2, Spagna meno 10,9, Francia meno 10,6%, tre paesi allineati in un crollo del PIL a doppia cifra. L'Italia ha il peggiore calo dell'Unione, ma ripeto, siamo in buona compagnia e dovremmo fare più 6,1% nel 2021. Il commissario europeo dell'economia Paolo Gentiloni ha spiegato che la differenza tra Italia, Spagna e Francia e gli altri paesi è dovuta anche alla durata e rigore del lockdown. L'Italia è stata relativamente in Europa il paese con forse il periodo di chiusura più prolungato, nel senso che è stato il paese che ha introdotto per primo le misure di lockdown e poi le ha rilasciate più o meno in contemporanea con gli altri paesi. E siccome abbiamo visto l'impatto devastante che i lockdown hanno sulle economie, questo viene considerato quando si prevede che l'Italia, come la Francia, come la Spagna, ma anche leggermente di più della Francia e della Spagna, abbia un impatto così serio. Le previsioni sulla ripresa dell'anno prossimo sono basate su diversi fattori, non ultimo la preoccupazione perché la zona più colpita è stata una zona, diciamo, spesso trainante, motore dell'economia italiana, le preoccupazioni che ci sono sul commercio internazionale, quindi, essendo l'Italia un paese molto orientato alle esportazioni, ma comunque si prevede un rimbalzo di crescita oltre il 6%, e penso che non bisogna concentrarsi tanto sulle differenze tra paese e paese, ma sulla sfida che questa ripresa propone per il governo e per tutti gli italiani. Allora, professore, se a questo aggiungiamo il rapporto dell'OCSE, oggi ci sono messi tutti, Banca Italia, Istat, Commissione Europea e OCSE, troppa grazia, che stimano la disoccupazione record nei paesi OCSE al 9,4%, l'Italia al 12,4%, poi andrà a calare. Anche l'OCSE dice l'impatto del coronavirus sull'economia italiana è tra i più forti nei paesi OCSE, però sono state prese misure senza precedenti a partire dall'Italia per sostenere il reddito. Sono aumentati del 40% i sussidi di disoccupazione tra marzo e maggio, e poi anche l'oda il reddito di cittadinanza, che deve garantire sostegno ai bisognosi. E dice: attenzione, la crisi occupazionale non può diventare una crisi sociale, altrimenti c'è il rischio di una generazione perduta. Professore. Ma ecco, anche qui dobbiamo prendere con le pinze queste previsioni. Intanto abbiamo una buona evidenza passata di previsioni sbagliate, che riguardano l'Italia, per esempio. Nell'autunno del 2017, se ricordo bene, l'OCSE ci dava per il 2018 meno qualcosa, e finì con più uno. Quindi attenzione, questi sono risultati di modelli che, con una realtà che cambia così strutturalmente, così rapidamente, hanno dei margini di incertezza maggiori. Dopodiché sicuramente noi siamo a livelli, come dicono le previsioni OCSE, di Spagna e Francia, ma che vuol dire che siamo nell'orbita, nell'ordine del meno 10 in sì. questo momento. Però poi i decimali non contano, no, i decimali vengono solo fuori dalle macchine, ma non dalla valutazione della situazione. Che cosa potrà succedere nei mesi successivi, quanto forte potrà essere il rimbalzo, non lo sappiamo. Sappiamo che partiamo ultimi, partiamo nel gruppo di coda. Ma ecco una cosa volevo capire da lei, perché uno potrebbe dire: queste sono le previsioni peggiori, più negative, quindi potrebbe andare solo meglio, oppure lei ritiene che siano, scusi il termine, previsioni mediane, cioè che potrebbe andare sì meglio, ma potrebbe andare anche peggio, e non è una differenza da poco. La prima variabile da prendere in considerazione è se ci sarà una seconda ondata o meno. Certo. E questo i previsori non ce l'hanno detto. Se c'è una seconda ondata può andare anche peggio. Spieghiamoci molto chiaramente, cioè se noi ci ritroviamo che a settembre i casi dovessero aumentare di nuovo a 1000 contagiati al giorno, allora va tutto in aria. Se invece questo non succede, e dipenderà anche un po' da noi, da comportamenti responsabili, eccetera, eccetera, e anche dalla capacità di reazione, diciamo, esatto, nell'isolare i focolai. Allora queste sono le cifre che peggio sono, il limite del peggio, con qualche possibilità di fare meglio. Ecco, in tutto questo, il fatto che l'Italia, la Spagna e la Francia siano nell'orbita del meno 10% di PIL, gli tre paesi con un doppio calo, potrebbe avere, diciamo così, un effetto positivo, chiamiamolo positivo, e cioè spingere ancora di più verso un'approvazione rapida del recovery plan, almeno, insomma, questa è la valutazione sempre del commissario dell'economia europeo Paolo Gentiloni. Le previsioni ci dicono che c'è ancora una grande incertezza nell'economia europea che deriva dal fatto che i lockdown sono stati abbandonati, le economie stanno riaprendo, ma ancora è un processo molto graduale che ha bisogno di fiducia, di iniziativa e soprattutto di un grande progetto comune europeo, perché quello che emerge da queste previsioni è che certamente la crisi ha colpito tutti i paesi europei, ma non allo stesso modo, e che le conseguenze economiche non saranno uguali per tutti i paesi europei. Se quindi vogliamo evitare che aumentino le differenze nella famiglia europea, dobbiamo varare al più presto questo piano di recovery proposto dalla Commissione. Ecco, professore, giro anche a lei la valutazione. È vero che gli altri paesi calano meno, la Germania, so ben visto, intorno al 7%, però quando tu hai le tre delle quattro principali economie dell'Unione Europea, perché considero la Gran Bretagna fuori, che sono a meno 10, è che forse questo come unico effetto positivo può portare un'accelerazione sul Recovery Fund? Direi senz'altro sì. Anche perché se poi naturalmente c'è qualcuno che dice noi votiamo contro, noi mettiamo il veto, eccetera, attenzione, che questi paesi tanto puritani hanno qualche scheletrino nell'armadio e ne hanno di quelli su cui l'Unione Europea potrebbe intervenire, e allora andrebbero in difficoltà loro. Pensiamo alle basse aliquote fiscali su società che sarebbero offshore. L'Olanda, tanto per dire. No, ma io infatti all'Olanda avrei fatto moral suasion ancora più forte, se possiamo usare questo termine. Iniziando a dire, guarda che se rompi ancora le palle, andiamo a vedere un po' di cose anche a casa tua. I paesi che ho chiamato fregali, non frugali, perché tendono più a essere furbiche. Sì, lì ci sono queste cose e noi possiamo mettere dei controvecchi. Allora, se facciamo così, rifacciamo l'Unione Europea, stiamo con un po' di paesi che, come dicevi, non rompono le palle e forse andremo meglio, ma questa sarebbe l'ultimissima istanza, che peraltro avrebbe l'80% della popolazione di questi paesi dell'Europa. Detto questo, io penso che si vada verso un accordo che sarà sostanzialmente, diciamo, nell'ambito dell'80% quello che la von der Leyen aveva proposto, quindi due terzi. Un terzo di prestiti e due terzi, diciamo, a fondo perduto, di sussidi, come si chiama in gergo. Nel ringraziarla, perché adesso voglio passare invece alla parte Istat, oggi è difficile mettere in riga le varie cose. L'Istat ha diviso invece tra settori, ha notato che c'è più resilienza nel settore manifatturiero, c'è più difficoltà in quello turistico. Può commentare però, dall'ultimo commento, anche sulle previsioni OCSE sulla disoccupazione? Allora, 12,4% è una disoccupazione molto alta, però insomma è record per tutti i paesi OCSE al 9,4%. Devo dire che l'OCSE loda anche le azioni messe in campo dall'Italia per sostenere il reddito. Ma direi proprio di sì, cioè per esempio, quando noi guardiamo in ambito OCSE la disoccupazione americana, ricordiamoci che lì la cassa integrazione non c'è. O sei occupato o sei disoccupato. Poi magari ti riprendono dopo 3 settimane, eccetera, ma come mangi sono affari tuoi. Invece noi abbiamo questo sistema di grande resilienza, per cui il disoccupato, quello che è in un'impresa in difficoltà, non viene licenziato, viene messo in questa situazione, in questo limbo tra il paradiso del lavoro e l'inferno della disoccupazione, sta lì e peraltro gli vengono dati delle risorse che non sono sicuramente gigantesche, ma sono ragionevoli per, tirando un pochino la cinghia, per poter tirare avanti. Ecco, quindi questa è un po' la nostra situazione, in questo siamo stati molto bravi. Allora, avremmo potuto avere delle tensioni sociali fortissime che non ci sono state, speriamo che non ci siano neanche in autunno, dove peraltro speriamo che la ripresa cominci, no? Non aspetti proprio il primo gennaio del 2021. No. Sì. Ecco, quindi io mi vedo un mondo in cui non c'è la seconda ondata, o perlomeno non è rilevante, saranno dei focolai limitati. Invece della seconda ondata abbiamo un inizio di ripresa abbastanza marcato, non ci porta nemmeno lontanamente ai livelli di prima, ma insomma è l'inizio, viene percepito come inizio, e alle volte è un poco di quei soldi che sono stati tenuti sui conti per paura, cominciano a sgelarsi e a essere introdotti nell'economia. Sì, questo è molto importante, perché quando tu hai la sensazione che la macchina inizia a accelerare, anche tu, così come adesso tutte le prospettive sono improntate alle incertezze e al pessimismo, puoi iniziare a dire vabbè, se la macchina è ripartita e io mi aspetto che ripari, posso anch'io mollare un po' la cinghia. Parlo di chi non è in disoccupato o in cassa integrazione, ma di chi ha avuto il reddito invariato e in questi mesi ha aumentato solo il conto corrente, perché non certo sono aumentate le spese. Questo per essere chiaro. A chi mi dice la sua propaganda a favore del MES è scandalosa, guardi, non c'è nessuna propaganda. Sto ancora aspettando che qualcuno mi scriva dovunque, su Facebook, qui, i motivi per cui non bisogna prendere il MES, non bisogna risparmiare 5-6 miliardi in 10 anni, 500 milioni all'anno, con un'obbligazione che è a tassi negativi per i primi anni, un prestito a tassi negativi, mentre se andiamo sul mercato con un BTP a 10 anni paghiamo l'1,30% da subito. Quando qualcuno mi spiega dov'è il cappio del MES, a parte gli investimenti in spese sanitarie dirette o indirette, io avrò le mie perplessità. È ovvio che il vincolo c'è ed è sulle spese sanitarie dirette o indirette. Comunque, grazie professor De Aglio. Traffico. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel. Ford Transit Hybrid. Meno consumi, più attenzione per l'ambiente, stessa capacità di carico. Tuo a 230 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 454. Veicoli commerciali Ford. Da sempre al fianco di chi lavora. Focus Economia. Allora, vedo ancora sul MES, perché le condizionalità non sono cambiate, lo stesso MES della Grecia, vabbè. Questo allora vabbè, allora no. Io però non è che posso dialogare con chi non legge e si inventa che la terra sia piatta. O ci mettiamo su un campo da gioco simile, leggiamo le cose, o uno ascolta Bagnai e Borghi e allora si ascolta un altro programma. Io cosa devo fare? Perché allora ragioniamo anche sulla terra piatta, con la famosa domanda cosa c'è sotto. Perché se tu non hai capito che abbiamo trattato per dei mesi per avere un MES con le uniche condizionalità, infatti vale solo per il 2% del PIL, che siano quelle per spese sanitarie dirette o indirette, ho capito che le condizionalità le puoi cambiare, possono cambiare, anche i mercati possono girarsi fra un po' e con 2.000 miliardi di debito andiamo con lo spread in alto. Che cosa vuol dire questo? Non facciamo più obbligazioni a sto punto, perché c'è il rischio che un domani possono girarsi i mercati se non abbiamo più la BCE? Ma per favore, iniziamo a dire grazie all'Europa in questo momento e a riconoscere la marea di castronerie che sono state dette in questi anni sull'Europa, no, affamatrice dei popoli. Senza l'Europa sì che eravamo con le pezze in quel posto. Allora, grazie a Roberto Calugi, direttore generale della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buonasera Calugi. Buonasera a lei, grazie, la regione e ai suoi radioascoltatori. Grazie anche al direttore di Confindustria Alberchi, Barbara Casillo. Buonasera Casillo. Buonasera, grazie. Allora, no, non vi ho chiamato sul MES, avete un attimo di spaesamento, è che non ne posso più di vedere gente che critica senza leggere. Allora, andiamo con la quarta fotografia di questa giornata molto complicata. Vi do solo i titoli, poi dovrò ascoltare le risposte dopo il GR24, che riguarda l'Istat. L'Istat dice sostanzialmente, attenzione, ci sono i primi segnali di ripresa e di effetto delle politiche sui redditi. Le vendite sono in recupero del 24% a maggio rispetto ad aprile, ma sono ancora sotto del 10% rispetto a un anno fa. L'e-commerce ha fatto più 41%, invece i negozi hanno fatto meno 18%, i piccoli negozi. Qui la parte che mi interessa di più, cioè l'Istat inizia a distinguere tra famiglie infelici in un modo e infelici in un altro, per dirla con Tolstoi. E allora i negozi piccoli meno 19%, la grande distribuzione meno 4%, il commercio ambulante meno 23%, l'e-commerce appunto più 41%, e i vestiti, lo shopping d'abbigliamento meno 34,8%. E poi, mentre la manifattura si sta riorganizzando in maniera anche dimostrando una certa resilienza, il 35% delle aziende si sta riorganizzando e addirittura il 30% della strategia di espansione, oltre un'azienda su tre rischia per la chiusura per il Covid, e qui vengo a voi, 6 alberghi e ristoranti su 10 sono in pericolo. Da questa fotografia emerge che tutte le famiglie sono infelici, però appunto ce ne sono alcune infelici in modo più pesante. Vorrei capire come sta andando, perché invece a noi arriva qualche segnale di vostri associati, ristoratori, baristi e albergatori, che nei luoghi turistici, non certo nei centri urbani senza, con uffici vuoti o pochi turisti nei centri storici, le cose stiano andando un po' meglio. La risposta, per favore, dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, ho letto prima della pausa del GR la fotografia dell'Istat, che ritengo più che corretta, perché inizia a distinguere tra la manifattura resiliente, con un terzo delle aziende che prevede contrazione dell'occupazione e degli investimenti, ma un terzo che prevede espansione, e il 36% che si sta riorganizzando, quindi un'azienda su tre che invece rischia la chiusura per Covid, e poi va a mirare su alcuni settori, e devo dire che la fotografia più negativa si ha sul settore alberghiero e ristorazione. Oltre 6 alberghi, ristoranti su 10 rischiano la chiusura entro un anno, mettendo in pericolo oltre 800.000 posti di lavoro. Il 65,2% delle imprese di alloggio e ristorazione, stiamo parlando di 20 miliardi di euro di valore aggiunto. A queste si aggiungono il 61% delle imprese dello sport, cultura e intrattenimento, 3 miliardi e mezzo di valore aggiunto e circa 700.000 addetti. Allora, vorrei capire da Roberto Calugi, in quanto direttore generale della FIPE, quindi Federazione Italiana Pubblici Esercizi, e poi da Barbara Casillo, direttore Confindustria Alberghi, se è una fotografia che vi risulta, e soprattutto se non vi sia invece un miglioramento più forte di quanto non ci si potesse aspettare prima, chiaramente non nelle zone di uffici e nei centri storici con turisti assenti. Calugi. Beh, innanzitutto di nuovo buonasera e grazie per l'invito. Ma guardi, io odio fare la Cassandra, siamo ottimisti di natura perché siamo imprenditori, però non è che l'Istat abbia fatto una fotografia sbagliata, tantomeno diversa da quella che stiamo dicendo da qualche tempo. Noi abbiamo fatto, guardi, un sondaggio proprio qualche giorno fa sul primo mese dalla riapertura. Ecco, i dati più o meno sono coincidenti, i nostri ci dicono che sui 66,4% dei nostri non è affatto ottimista sulla possibilità che l'azienda ritorni a dei livelli di fatturato, diciamo, non voglio dire pre-Covid, ma accettabili. Guardi, lei chiudeva prima del GR dicendo: ma qualche ristoratore ha dei livelli di fatturato comunque accettabili. Certamente ci sono dei ristoratori, soprattutto in quelle zone magari turiste, che vivono di turismo locale, che magari riesce ad operare abbastanza bene, ma io le do anche qui alcuni dati oggettivi, poi i numeri sono numeri. Noi assistiamo a un calo di fatturato medio del 50%, 50,3%. per farle capire, circa un ristoratore o un barista su tre fattura meno del 70%. Poi, ovvio che se mi sposto in un centro storico di una città, che ne so, come Milano, oggi i ristoranti stanno lavorando all'80-90% in meno. Se poi vado in una zona turistica, è evidente che questo viene affievolito. E il rischio è ovviamente quello della tenuta, la tenuta delle imprese. Su questo credo che nessuno possa avanzare dubbi che un'azienda con un 50% di fatturato in meno, ma anche con un 30% di fatturato in meno, riesca a stare sul mercato, soprattutto se si considera il livello medio, perché l'Istat, la Risoni, dice anche una cosa molto carina in questa nota: non solo fa una distinzione di settore, ma poi ti va a vedere anche il livello dimensionale delle imprese, e le nostre imprese sono quelle che poi i turisti, gli italiani amano, sono quelle microimprese che ti garantiscono quell'eterogeneità di prodotto straordinaria, sì, che viene offerta dal territorio italiano, ma dall'altra parte sono estremamente fragili e difficilmente. Beh, anche con una bassa capitalizzazione delle volte. Barbara Casillo, dal punto di vista degli alberghi, anche qui io non voglio per forza buone notizie, ci mancherebbe. Oddio, non è che mi facciano schifo in questo periodo. Però anche voi notate da una macchia nera a una macchia di leopardo, cioè che in alcune zone c'è una... ma a me stanno scrivendo molti ascoltatori che non sono riusciti a trovare alloggi nella zona, nella Riviera Adriatica o nella zona della Versilia. Non so se sia per la vicinanza a regioni del nord da questo punto di vista, ma insomma qualche... da macchia nera a macchia di leopardo, no? Beh, una situazione davvero molto difficile. Devo dire che quello che ha scritto l'Istat non ha creato nessuna meraviglia nel settore. Certamente qualche struttura ha riaperto, soprattutto nelle località di mare, anche perché la stagione questa è o aprono ora oppure evidentemente passano all'anno successivo. Ma non possiamo parlare di un'apertura a tappeto di tutte le strutture, parliamo sempre di un'apertura molto parziale. Noi è un mese che monitoriamo, diciamo, le intenzioni delle aziende, perché, insomma, lo sapete, vale per tutti noi come cittadini, siamo in un momento in cui l'orizzonte in cui ci muoviamo cambia continuamente, quindi abbiamo deciso di fare una rilevazione settimanale per capire le aziende se pianificavano o meno la riapertura, come reagivano alle informazioni. Abbiamo visto due settimane fa c'è stato un momento forse di maggiore positività davanti alle, diciamo, rispetto alle imprese, ma nell'ultima settimana mi sembra che la situazione sia abbastanza stabilizzata, e ce lo dicono anche i prezzi, perché sul mese di luglio ci continuano a segnalare prezzi sostanzialmente ridotti rispetto all'anno precedente. Questo è evidentemente una funzione della domanda, una domanda che comunque è debole. Poi ovviamente ci possono essere delle specificità, non entriamo nel meccanismo, ma ricordiamoci che più del 50% delle presenze italiane sono fatte di turismo internazionale, il che vuol dire un contributo enorme del settore alla bilancia dei pagamenti, un contributo importantissimo al nostro PIL, ma in questo momento una quota completamente ferma. Okay. Le città, io credo le vediamo tutti, basta guardarci intorno. No, lo dico perché io continuo ad avere questa idea, adesso passeremo dopo il traffico alla Italia Veloce, quindi al DL Semplificazioni e alla, diciamo, e alla parte inserita in Italia Veloce, perché secondo me le infrastrutture, al di là della loro funzione, dovranno anche far ripartire l'economia. Però attenzione, perché se vale anche per il settore dei taxi, mi stanno scrivendo i tassisti chiaramente, o per il settore abbigliamento che non è ripartito, poi il governo dovrà, diciamo, dopo l'estate a maggior consuntivo, adesso abbiamo fatto un mese e mezzo, diciamo, dalla riapertura del 18 maggio, però dovrà andare a guardare quei settori che sono ancora con fatturati, diciamo, sotto il 30%, inferiori di almeno il 30%, per usare il livello usato per il DL che ha dato ristoro, che ha dato soldi a fondo perduto, e continuare a intervenire lì. Cioè, se tu vedi che alcuni settori, bene o male, si stanno riprendendo un conto, in altri, a partire dagli esercizi commerciali, i negozi, gli alberghi, i ristoranti che lavoravano con la clientela business e che sono anche preda non del lockdown ma dello smart working, ebbene, e poi continuare ad aiutare quei settori, magari con altre iniziative a fondo perduto, perché la distinzione tra settore e settore sarà fondamentale nei prossimi mesi. Io vi riavrò ospiti, grazie a Roberto Calugi, grazie a Barbara Casillo. Andiamo sul traffico e poi parliamo, iniziamo a parlare del DL Semplificazioni, ma soprattutto di Italia Veloce. 130 opere prioritarie, di cui 36 commissariate per renderle, speriamo, per prendere la realizzazione ancora più veloce. Ma quello è Mario. Che cosa ha fatto ai capelli? Sembrano così forti e vitali. È proprio lui. Si è rivolto ai professionisti della Sanders. Caspita, con loro puoi fare trattamenti naturali e il test genetico. Fanno pure il trapianto capelli con tecniche innovative. Istituto Elvetico Sanders. Siamo in tutta Italia. Chiama subito e prenota la tua analisi gratuita. Numero verde 800 283838. Istituto Elvetico Sanders. Da sempre naturali alleati dei tuoi capelli. Per trapianto autorizzazione regionale Umbria 13388-18. Direttore sanitario dottor Mazzeo. Focus Economia. Ieri in Consiglio dei Ministri abbiamo anche approvato l'elenco di 130 opere strategiche Italia Veloce che sono state individuate specificamente dal Ministero, dal MIT, Ministero per le Infrastrutture. A queste aggiungiamo anche le opere per Cortina, quelle di competenza di altri ministeri, sanità, dissesto idrogeologico, scuole, caserme, carceri, polizia. Andremo quindi a realizzare speditamente alcune di queste opere, un brevissimo elenco. Alta velocità di rete, Salerno-Reggio Calabria. Alta velocità di rete, Palermo-Catania-Messina, che va in gara già quest'estate. Alta velocità Pescara-Roma e Pescara-Bari. Alta velocità ancora Genova-Ventimiglia, alta velocità Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica, ampliamento della Salaria, fronte laziale anche marchigiano, ampliamento della Pontina, la Ragusana, commissariamento anello ferroviario di Roma, ponte sullo Scrivia in Liguria, stiamo parlando della 7, invece di manutenerlo lo demoliamo e lo ricostruiamo. Ferrovia Pontremolese, La Spezia-Parma, potenziamento Agrigento-Caltanissetta, alta velocità Brescia-Verona. Commissarieremo 9 dighe sarde, perché la Sardegna ha bisogno di acqua. E ancora la diga di Pietrarossa, Enna-Catania e poi in Lombardia realizzeremo le varie opere, l'ho già detto, per le Olimpiadi. Ecco, questo un po' è un florilegio di tutti i cantieri che verranno velocizzati e su cui procederemo speditamente. Oh, adoro il florilegio quando si attua le opere infrastrutturali e adoro Giorgio Santilli perché sa tutto di opere infrastrutturali, collega del Sole 24 Ore. Buonasera Giorgio. Grazie Sebastiano, buonasera. Non ti ho paragonato a un florilegio, però adesso andiamo. Dunque, sono 130 le opere, non possiamo fare tutto l'elenco, una parte l'avete già ascoltata dalla voce del Presidente del Consiglio Conte. Vorrei capire una cosa, queste sono entrate in Italia Veloce, però, se ho ben capito, di queste 130 opere prioritarie, ce ne sono alcune, nello specifico 36, così prioritarie da essere commissariate, e quindi 12 tra dighe e acquedotti, 15... opere ferroviarie, valico di Giovi, Napoli Bari, Roma Pescara, così, 9 infrastrutture stradali come la Grosseto Fano, Roma Latina, oppure sono in parallelo? E seconda domanda, così mi dai un'unica risposta, che tempi hanno sia le 130 strategiche che le 36 commissariate? Allora, le 130 strategiche, di cui il Presidente del Consiglio se ne ha ricordato una parte consistente, appartengono a un disegno strategico che, diciamo la verità, non è nuovo per l'Italia, nel senso che molte di queste opere voi le avete sentite nel corso degli ultimi forse 20 anni. La cosa che mi pare interessante è che questo governo, e parliamo ancora del livello strategico, cioè di medio-lungo periodo, questo governo ha deciso con molta nettezza di puntare su alcune cose. Conte ricordava l'alta velocità di rete, effettivamente su quello mi pare che ci sia un tentativo di accelerazione, se possiamo parlare di accelerazione rispetto, ripeto, a interventi che sono programmati da 20 anni. Però insomma questo governo sta facendo, mi pare, dal punto di vista della strategia, delle priorità da individuare, sta facendo un'opera di selezione interessante. Così come bisogna dare atto al governo che il decreto varato oggi, sia pure con alcune cose migliorabili e sia pure con alcune questioni che hanno appassionato la maggioranza, commissari sì, commissari no, le gare eccetera, molte di queste non proprio fondamentali ai fini della realizzazione degli investimenti, però bisogna dare atto al governo che sia pure con queste considerazioni il provvedimento è un buon provvedimento. Poi ci sono le 36 opere che ricordavi tu, cioè i commissari. Ma quelle sono dentro le 130 o sono in aggiunta? Non ho capito quelle io. Quelle sono, alcune sono dentro, altre non sono nelle prioritarie, per esempio il famoso Ponte Scrivia, la Ulla, sì, eccetera, che è un'opera certamente non prioritaria, però l'hanno messa dentro perché è necessario diciamo intervenire al più presto. Gran parte di quelle sono anche opere prioritarie, però la scelta è stata molto chiara alla ministra De Micheli, la scelta in base alla quale sono state individuate queste opere è una scelta che riguarda il fatto che queste siano opere incagliate da molto tempo, che non se ne riesce a venire fuori. Questo è anche un po' una cartina di tornasole della lunga battaglia dentro la maggioranza, chi ha vinto, tanti commissari o pochi commissari? Direi tendenzialmente pochi commissari, se ricordate da che punto eravamo partiti, modello Genova per tutti. Ecco, questo modello Genova per tutti non c'è e sarebbe stato impossibile perché Genova è una condizione secondo me irripetibile. Il fatto che si sia riuscito a fare il ponte così in breve tempo nasceva da una serie di circostanze anche altre che non solo di regole formali. Certamente qui un tentativo di accelerazione su alcune cose c'è. I commissari saranno solo 36, poi ne potranno arrivare altri, però non saranno commissari che avranno poteri straordinari come quello di Genova. E saranno, se leggo bene il decreto, il testo che circola, l'ultimo che abbiamo visto, saranno solo in casi di vera emergenza oppure di opere che vanno disincagliate. Quindi non confonderei i commissari con le priorità. Ultima domanda per te. Il governo ha detto che ci sono 113 miliardi per le ferrovie e 54 miliardi per strade e autostrade, 21 per il trasporto nelle città metropolitane, 5 miliardi ai porti, 3 miliardi agli aeroporti. Sono d'accordo con te che almeno c'è il tentativo di accelerare su alcune direttrici e nello specifico l'alta velocità, anche forse più ambizioso di quanto non si fosse visto in questi anni. L'ultima domanda che ho per te però riguarda la velocità non dei treni o delle auto ma delle opere, e cioè ci sono elementi in questo Italia veloce per dire che finalmente, poi manca ancora il DL semplificazione perché è stato approvato salvo intese, per esempio sull'abuso d'ufficio c'è ancora una riserva di Italia Viva, però ci sono elementi per dire che a sto punto andranno più speditamente? Il decreto sicuramente fa un intervento piuttosto pesante da un punto di vista normativo. Forse ci si è concentrati troppo sulla gara. La gara è un passaggio importante, ma diciamo che quei 15 anni medi che fino ad oggi sono stati la durata per la realizzazione di un'opera, la gara prende un anno. Va sicuramente accelerata e quindi è giusto anche su questo andare in deroga a norme che ormai sono troppo vecchie e troppo pesanti. Temo che non ci sia ancora la chiarezza giusta sulla parte che sta prima della gara, cioè le autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale, i pareri delle sovrintendenze, eccetera. Lì vediamo delle accelerazioni, per esempio c'è una nuova commissione per la valutazione di impatto ambientale che dovrà agire su una serie di interventi, quelli cosiddetti green. Ma perché solo su quelli green allora e anche non sulle infrastrutture di trasporto, se si arriva alla conclusione che qualcosa va accelerato? Mi pare che alcuni punti ancora sono da rivedere e mettere a fuoco, però certamente un'accelerazione la vediamo. Non mi dire se da 15 anni passiamo a 5, non credo che certamente andiamo un po' più veloci, ma c'è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto ricordiamoci che le riforme vanno messe per terra, cioè vanno attuate e A me basterebbe vedere partire i cantieri o vedere continuare a lavorare i cantieri, però Giorgio, nel senso che poi per l'impatto sull'economia del PIL è ovvio che non mi immagino che venga chiusa un'opera in un anno, non è appunto il ponte di Genova, però già se tu avessi i cantieri e avessi gli operai al lavoro o continuassi a vedere gli operai al lavoro, l'impatto sul PIL vi sarebbe. Secondo te i cantieri partiranno un po' prima? Ho 20 secondi. C'è una parte di questo piano che citavi che purtroppo non è stata comunicata a sufficienza, secondo me, cioè non i 196 miliardi con le 130 opere, ma meno della metà, circa 77 miliardi, di opere magari più piccoline, magari di manutenzione, magari di opere in corso che si possono accelerare, di progetti già pronti. Questa è la parte più interessante di questo lavorone che è di 500 pagine. Cioè lì dentro c'è un piano di 77 miliardi di opere che effettivamente possono produrre PIL, per capirci, nel 2020 e nel 2021 se andiamo a un'accelerazione. Quindi c'è, diciamo, vedo dei segnali interessanti che magari non sono quelli che anche la propaganda e la comunicazione politica tendono a tramandare, insomma. Le 130 opere sono le stesse da 20 anni. Però sull'accelerazione vedo dei segnali interessanti e mi fido di te perché sei appunto il massimo esperto del Sole 24 Ore in questo tema e sei anche uno abbastanza critico, per cui se mi dici che qualche elemento di accelerazione lo vedi, io spero che poi i cantieri vengano, ripeto, o continuino a lavorare o iniziano a lavorare, perché questo poi ha ricadute su quest'anno e quindi chiudiamo dove siamo partiti, la previsione di un meno 10%, meno 11% di crollo del PIL quest'anno, nell'anno prossimo e anche nel 2022. Grazie anche a Giorgio Santilli, è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, le auguro di una buona serata.